avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait le vin de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme. Io non sono mai stato un nostalgico del tempo che fu, anzi, sono profondamente incuriosito e appassionato dalla mia contemporaneità. Anche perché il tempo che fu, io non l'attraversai con la mia esperienza consapevole e quindi non so esattamente come fosse il tempo in cui gli uomini erano completamente padroni dei propri sensi. E li usavano come oggi ancora li usa qualche animale. Erano ferini nell'olfatto, nello sguardo, nell'udito, nel gusto, nel tatto. Avevano una perfetta consapevolezza di perimetrare il mondo che loro circondava attraverso i propri sensi. Oggi cosa rimane della nostra sensorialità? Rimane comunque qualcosa, altrimenti saremmo masse amorfe, ma comunque esistono stratificazioni molto spesse, molto concrete rispetto alla scaturigine genuina delle sensazioni, vuoi quelle olfattive che sono coperte, addomesticate, edulcorate. Ieri un'amica mia mi ha detto: sai, aprivo una tua mail e ho sentito il tuo profumo, e ho pensato: non è il mio profumo, è probabilmente l'acqua di Colonia che mi metto da 20 anni circa, che ormai viene associata al mio passaggio, alla mia presenza, non che ami profumarmi come una cocotte, ma ormai a forza di usare sempre lo stesso dopo barba, rimane impregnato, fa parte di te, diventa parte di te, ma non sei te, non lo ha prodotto nessun tuo feromone, nessuna tua ghiandola, nessuna tua essudazione, no, è semplicemente qualcosa che ormai ti si è appiccicato addosso. Mi sta bene, questo è il momento delle protesi, è l'epoca fantastica in cui abbiamo bisogno di supporti artificiali, andando avanti, la vista. Io se non avessi questi occhiali spessi con delle lenti polifocali, vedrei sfocato anche semplicemente a mezzo metro da me, non potrei leggere, non potrei cogliere i colori, vivrei come un semicieco probabilmente. L'udito. Io ogni mattina osservo nel mio viaggio in metropolitana, che è una fantastica sinestesia della contemporaneità, sento gli odori di tutte le etnie possibili, sento l'odore di tutti i macchinari possibili, sento l'odore sotterraneo della città, e sentire come profuma le viscere di una città mi dà l'impressione di quello che accadrà sopra. Presago le manifestazioni che ci saranno a Piazza Esedra semplicemente avvicinandomi con la metropolitana all'uscita di Piazza della Repubblica. Però in quel momento, lì dentro, in mezzo a tutti questi odori, vedo delle persone, ognuna seduta al suo posto, ognuna con la sua cuffietta, pensando di stare in una sorta di habitat isolato acusticamente, in realtà inquina lo spazio altrui, perché il volume è fortissimo, più uno ascolta qualcosa in cuffia, lo sa bene chi fa la radio, più si attutisce la capacità di percepire un suono, quindi bisogna aumentare il volume dell'emissione. Quindi ormai, dopo qualche anno di consuetudine di mettere delle cuffiette con un riproduttore di MP3 al collo, hanno tutti un volume fantastico, quindi è una sorta di mix vagone per vagone, è come passare attraverso una discoteca con un DJ folle che mixa delle musiche improbabili a tutto volume. Andando avanti, il tatto. Cos'è mai il tatto? Non lo so. Oggi siamo in una civilizzazione dotata di grandissime impudicizie apparentemente, ma in realtà abbiamo una sorta di corazza che difende la nostra sensorialità. I corpi che vediamo sono corpi che in realtà difficilmente danno sensazioni, perché appunto nella penombra, nel sottinteso, nella zona ombratile in cui i sensi vanno a cercare con la loro preminenza, quindi il tatto non richiede altro che poter toccare cose sconosciute. Quando le cose sono davanti, difficilmente il tatto ha delle sorprese che creano delle sensazioni. Beh, andando avanti in questa direzione, vorrei che questa mattina mi aiutaste a riscoprire i sensi, o perlomeno a qualificare quelli che sono i sensi della nostra civilizzazione, senza immaginare e sperare che possano tornare periodi in cui noi annusiamo e sentiamo il passaggio dei nostri simili anche in una landa deserta. Non potrà accadere più quello, perché ormai noi abbiamo una sorta di anestesia alla nostra primordiale sensorialità, ma cerchiamo di capire oggi come misuriamo il mondo, misuriamo le persone che ci circondano attraverso i nostri sensi. 800 24 0024. Hai sentito? Che cosa, signore? Odore di femmina. Com'erano, dimmi? Alte? Piccole? Giovani di sicuro, lo riconosco l'odore di acella giovane. Eh? Ciccio, com'erano? Descrivere, per Dio! Non lo so, non l'ho viste bene. Erano due, però. Ma dove ce l'hai gli occhi? Ti piacciono le donne, sì o no? E se ti piacciono, non sai riconoscere se un seno è fatto a pera o a pagnotella, se un culo è alto o basso. Cosa credi, che io soffra perché non posso più vedere i tramonti o la cupola di San Pietro? Il sesso, le cosce, due belle chiappe, ecco la sola religione, la sola idea politica, la vera patria dell'uomo. Hai capito? Approfittando di un mio momento di non perfetta lucidità dovuta a trascinamenti notturni in una Roma che era troppo fantasticamente profumata questa notte, Fabrizio Intonti ha cominciato subito con un pezzo che dà un segno, non è quello che volevo dare a questa trasmissione. Profumo di donna, comunque, chiaramente, questo è il film diretto da Dino Risi, ma il romanzo da cui è tratto è Il buio e miele di Giovanni Arpino, è questa storia di questo ufficiale che è diventato cieco, particolarmente appassionato di grazie femminili, riscopre una nuova capacità di percepire comunque la femmina, che per lui era tanto importante, perché con l'abbattimento di un suo senso e quello della vista c'è la riscoperta dell'olfatto, e quindi avverte questa nuova sinestesia sensuale e lubrica attraverso appunto una sorta di educazione sentimentale alla conoscenza della donna, che fa il suo attendente, che ci vede benissimo in realtà, ma non capisce, non sente, non percepisce. Questa mattina voglio farmi guidare in questo percorso di riscoperta dei propri sensi da Claudio Risè. Claudio Risè, buongiorno. Buongiorno. Allora, Claudio Risè, psicoterapeuta, un docente universitario, ha documentato i suoi libri, sono stati tradotti in Russia e in Brasile, come L'allontanamento dalla natura e dal corpo, altrimenti la maggior parte dei disagi psichici alimenti la maggior parte dei disagi psichici contemporanei. Ha scritto per Sperling e Kupfer questo suo ultimo libro, Guarda, tocca, vivi, riscoprire i sensi per essere felici. Claudio Risè, ci diamo del tu perché ci siamo del tu nella vita, certo, e non certo, sopporto beh. L'ipocrisia di darsi del lei. Anche questo è un abbattimento sensoriale. La maggior parte dei miei colleghi danno del lei a persone con cui poi vanno a bisbocciare notte e giorno. Perché c'è questa sorta di desiderio di mostrare all'esterno una sorta di ossequiosa distanza? Anche questa è una paura di dimostrare apertamente le proprie felici espansioni sensoriali, secondo te? L'intimità, di mostrare la propria vicinanza, ma in generale, diciamo, questa mi sembra una società molto che entra molto appunto nell'intimità delle persone, dicendogli cosa devono provare, come devono atteggiarsi, come devono far finta di comunicare l'uno con l'altro, e questo è uno dei grandi elementi di ottundimento dei sensi. Ecco, io non so se saremo d'accordo su tutto. No, no, ma certo. Sicuramente non su tutto, però vediamo, tu ti rifai a un'epoca aurea in cui i sensi avevano una preminenza, un valore diverso rispetto a quella contemporanea? Ma no, guarda, io poi appunto l'epoca aurea non l'ho vista nemmeno io e non so cosa è successo, però siccome sono qui da molto tempo, vedo con molta preoccupazione, poi faccio questo lavoro dello psicoterapeuta, vedo con molta preoccupazione questo progressivo e molto veloce ottundimento dei sensi, che diventa poi un indebolimento dell'io, un indebolimento del soggetto, perché bene o male, tu parlavi prima dell'odore di città, di macchine, di rotaie del metrò, eccetera, appunto, questo è un odore, è una sensorialità molto precisa che alimenta comunque la personalità. Ma se noi incominciamo a non sentire più una serie di cose, per esempio questi ragazzi che stanno dentro l'iPod dalla mattina alla sera, una serie di rumori, di sferragliamenti diversi dalla loro musica preferita, non lo sento. Oppure se uno gira col fantastico navigatore, naturalmente comodissimo, una cosa straordinaria, però non sviluppa più delle zone di attenzione sensoriale che sono molto precise, hanno dei collegamenti con le zone del cervello che riguardano lo spazio e che gli dice vai a destra piuttosto che... Io mi sentivo spesso dire, che mi accompagnava in macchina, che ero come un somaro, faccio sempre la stessa strada, anche se magari era la più tortuosa. Anch'io adesso sono schiavo del navigatore, naturalmente, ma nel mio seguire il mio percorso, la mia via strana sotto le strade ufficiali, evidentemente per me aveva un senso. Eri te, te ti piaceva probabilmente quei giri lì strani e tortuosi che andavi a fare, e comunque corrispondeva a te, mentre invece se uno non si mette più alla prova su niente o quasi, alla fine anche non è niente, e quindi ci sono tutta una serie di disturbi molto gravi, ha paura di tutto, è insicuro, è depresso oppure diventa euforico, comunque insomma una serie di guai che i sensi nella loro elementarità, perché non c'è niente di eroico, di straordinario nei sensi. I sensi ti dicono che diavolo sta succedendo attorno a te. Forse siamo stati troppo abituati a dover controllare i nostri sensi. Sei padrone dei sensi. La sensualità è qualcosa che comunque l'uomo civilizzato deve, in un certo senso, costringere entro degli schemi, o perlomeno deve controllare. L'esplosione dei sensi ne è vista sempre come un momento di perdita del controllo su se stessi, qualcosa che la società guarda sempre con grande sospetto. Può essere che sia anche questo tipo di cultura che ci ha allontanato dalla conoscenza dei nostri sensi? Moltissimo. Secondo me questa è apparentemente un modello di cultura, come dire, liberale, permissivo, appunto tutto è liberato, ma non è vero niente, perché ti spiegano persino appunto quando parli con un amico a cui generalmente dai del tu, invece devi dare del lei, oppure se sei estremamente immusonito e c'hai la luna storta devi però sorridere, perché questo è il modo della persona di successo, della persona giustamente socializzata, se no sei un tipo strano. Sentiamo i primi ascoltatori, scusami un attimo Risè. Roberta, buongiorno, così diamo buongiorno, subito Nicoletti. Strumento dialettico, eccomi qua. Buongiorno. Qual è il tuo senso prevalente? Tu come misuri il mondo? L'olfatto. Il mio preferito è l'olfatto, in assoluto. Le spiego anche il perché. Perché l'olfatto, se non sbaglio, è l'unico dei nostri sensi che non viene rielaborato dal cervello e per cui esprime il nostro istinto. E allora, non so, ti piace una persona, non lo sai, sì, no, vai a sentir l'odore. Un po' come fanno anche i cani, no? Vai a sentir l'odore. Se ti piace il profumo... Mi togli le parole di bocca. Ho detto pochi giorni fa, dico, non ho nessun desiderio di essere guardato, lusingato e tutto. Mi piacerebbe che qualcuno ti annusasse proprio come fanno i cani, ti desse un'odoratina e dicesse cosa sente. Esatto, perché comunque non ti rendi conto che stai dicendo qualcosa che è sul filo della blasfemia dire qualcosa del genere. Già immagino il rigore di tanti ascoltatori quanto sarà colpito, perché andando avanti lungo le scie sensoriali e le vocazioni olfattive si arriva in innominabili meandri che la società tende a esorcizzare attraverso appunto creme, deodoranti, profumi, anestetizzanti olfattivi e via dicendo. Bene. Fabrizio, sentiamo Fabrizio invece. Fabrizio? Io sento molto importante. Ah, ecco, adesso sento meglio. Volevo fare notare il paradosso che c'è nelle varie caramelle ai frutti, no? Per esempio, io mi sono trovato a ragionare con dei ragazzini che la caramella alla fragola sa di fragola più della fragola medesima. Vabbè, grazie, sono degli esteri chimici che danno il sapore di fragola anche al mio microfono, se ce li mettessi sopra saprebbe. Esatto, però il problema è che poi i ragazzini credono che il gusto sia mistificato, loro non sanno. Quindi le fragole non sanno più di fragola quando le vanno a mangiare. Sanno di acqua, uno certo. Compra le fragole e o il melone, il melone a volte, ma emblematicamente la fragola è il frutto dove si prende più fregature, perché delle volte profumano ma non hanno sapore. Anche il melone a volte dà delle grosse fregature. Anche il melone. E poi ho notato che i sapori forti come l'aglio, che è antisociale per eccellenza. Sì, io lo odio, questo non, purtroppo non transigo. Per me l'aglio è qualcosa che mi fa venire, mi accappona la pelle, lo so. Però fa bene, dico. Trago il 50% di piacere in più in un piatto agliato che non in un piatto scevro. Di questo insomma, per me ormai è una barriera invalicabile quella dell'aglio. Guarda, io sono umbro, ero abituato a mangiare l'aglio a pezzi strofinato sulla bruschetta. A un certo punto della mia vita, come insorgono le allergie, per me è venuta la fobia per l'aglio e anche per una serie di altre cose a cui non so se associare o no questa cosa qua. Andiamo avanti, l'ultimo, Francesco, poi sentiamo cosa ci avrà da dire di te. Francesco, Anche lei, abbiamo toccato vari sensi, vedo. Il gusto rispetto al perduto sapore di fragola, l'olfatto per la signora che annuserebbe tutti come un cane, e Francesco, un altro senso ancora? Io vorrei parlare del tatto. Perfetto. Perché io faccio il designer, disegno oggetti industriali, e il tatto è un senso fondamentale per guardare le superfici. Attraverso il tatto io guardo i modelli delle cose che faccio, oppure gli oggetti finiti, li guardo con la punta delle dita, perché con la punta delle dita si capiscono le qualità delle superfici, i raccordi con i piani, i punti di giunzione, gli scuretti tra le superfici. La forma si percepisce straordinariamente col tatto. Guarda, le dirò che è molto affine al suo lavoro, che io sto facendo le ristrutturazioni a una casa e la scelta dei rivestimenti, dei pavimenti, non è tanto data dal colpo d'occhio quanto a farmi dare dei modelli, portarmeli a casa, camminarci sopra a piedi nudi o toccarli con i polpastrelli, perché è troppo fondamentale. Sì, assolutamente sì, il tatto ti dà la sensazione della lucidità di una superficie, di quanto è ruvida, di quanto è trasparente, di quanto è riflettente. Quindi in realtà il tatto è uno strumento, per me è uno strumento di lavoro, ma è un senso che dà una quantità di informazioni sul mondo reale assolutamente straordinarie, più vaste di quelle che lei ha toccato. No, me ne rendo conto e fa piacere. Claudio Risè, è visto che alla fine però, se andiamo a scavare e cerchiamo e buttiamo la provocazione a fondo, esistono dei sistemi di recupero. Il signore che vorrebbe insegnare ai suoi ragazzi che la fragola non è quel saporino che sta nelle gomme americane, nei preservativi, in quelle cose che vengono infragolizzati perché è bello farli sapere di fragola. Idem per il designer che studia attraverso il tatto e la signora, residuo esemplare fantastico di femmina che ancora dà un senso all'odorato. Fantastico, ma questi sono i tuoi ascoltatori che sono degli appassionati, selezionati, che evidentemente hanno questo rapporto che hai tu di valorizzazione della civiltà nelle sue elaborazioni più utili e più interessanti, e però anche di estrema attenzione alla propria umanità, alla propria soggettività nel vagliare l'esterno. Quindi in realtà il pensiero corrente è ben distante da queste osservazioni. Purtroppo sì, soprattutto quelli che rischiano di distanziarsi moltissimo sono i ragazzi, perché per esempio è molto importante questa cosa della fragola, perché tutta l'alimentazione industriale, come tu sai benissimo, è in gran parte totalmente fabbricata, sì. Ed è affascinante. In America hanno scritto dei libri sull'addiction, la dipendenza proprio come la droga che viene ai ragazzini che vengono abituati fin da bambini a mangiare quella tal merendina assolutamente pazzesca dal punto di vista nutritivo, però con tutti i sapori più buoni rispetto a quelli della natura. Ma sai, i cosiddetti esaltatori di sapidità, che sono delle sostanze chimiche che danno quel sapore di polpetta, di hamburger favoloso, che a casa tu puoi fargli quando vuoi, non sapranno mai come quello lì, perché è un prodotto chimico che ti agisce nelle tue papille gustative e ti dà qualcosa di forte, uno shock, ma come uno che è abituato alla cocaina e poi gli dai, che ne so, un po' di borotalco, dice ma che è questa roba? Purtroppo è così. Certo, no, ma e quindi i ragazzini sono i più esposti a questa privazione sensoriale. Per esempio, appunto, uno che come la signora si rende conto di questa fondamentale funzione dell'odorato, rischia di essere guardato un po' male, perché come sai appunto oggi tutti i deodoranti, non solo, ma ci si depila per non avere odore, per non accumulare odori, eccetera eccetera, e quindi c'è questo modello completamente deodorato e desensorializzato, e che poi diventa una prigione, perché prova poi a uscire da lì una volta che ti hanno insegnato a starci con assoluta perfezione. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Non dire una parola sul cibo. Neanche una parola. Come alle nozze di Cana, il cibo non è importante. Non gli rivolgeremo il nostro pensiero. Incredibile. A Montillato, È il miglior amontillado che abbia mai gustato. Non ci sono dubbi, questo è certamente brodo di tartaruga. E che brodo di tartaruga! Ora, Eric, champagne. Una volta a ciascuno. E pour le général, ogni volta che il bicchiere è vuoto. Molto bene. La parigina Babette Tersan riesce a scardinare la tenuta etica e morale della comunità protestante in un villaggio della Danimarca usando tutti i suoi soldi, tutte le sue risorse, una cifra che ha vinto appunto ingentissima per lei, per costruire a loro un pranzo fantastico, favoloso, con le più grandi prelibatezze unite a una cura nell'apparecchiamento, nell'attovagliamento e via dicendo, fa loro toccare il paradiso. Quindi lei usa tutto ciò che aveva, tutte le sue risorse, per dare un lembo di paradiso sulla terra a queste persone che erano nel rigore, probabilmente per procurarsene uno in una ipotetica e futura vita eterna. Beh, questo romanzo di Karen Blixen dà l'idea, in realtà, quanto la capacità di appagamento, di solleticamento, di titillamento dei sensi è qualcosa che va oltre la semplice attività lussuriosa come qualcuno pensa. I sensi sono il grande strumento di misurazione del mondo che abbiamo attorno. Il mondo vale la pena di guardarlo, investigarlo, conoscerlo e capirlo. I sensi ci aiutano a farlo. Stiamo parlando questa mattina assieme a Claudio Risé, autore di Guarda, tocca, vivi, riscoprire i sensi per essere felici, editore Sperling e Kupfer. Sentiamo qualche ascoltatore e poi riprendiamo con Risé. Paola, buongiorno. Buongiorno. Allora, a proposito delle rose, io adoro i fiori e li fotografo continuamente. E però non profumano più una volta che la fotografate. No, e il discorso che faccio è quello che le rose sono anche più belle di come erano prima, ma non hanno più il profumo. Lo so, anche una volta qui era tutta campagna. Il pane non ha più il sapore di una volta, tutto. Le donne una volta erano molto pelose, cioè ognuno può dire quello che vuole, ma ripeto, quello che ho detto in apertura, noi abbiamo una sorta di nostalgia che aumenta il piacere del ricordo di quello che fu una volta. Oggi le rose sono bellissime perché sono costruite in laboratorio, il profumo probabilmente è una fattispecie non importante riguardo al fatto che sembrino finte per quanto sono belle. Lei rimpiange le rose di una volta oppure le piace avere queste belle ma che non hanno odore? No, io rimpiango le rose di prima e soprattutto... E basta andare in campagna, è pieno di rosetti selvatici. Lo so, le glantine tutte. Allora, ecco, faccio però... una bella passeggiata, cioè questo e l'altro. Sì, certo. Io non ho nulla contro il mondo sintetico, questa mattina ho visto una nuova tecnologia in Giappone, la descrivo velocemente per gli ascoltatori. Immaginate una platea immensa di persone appassionate per un artista che canta su un palco. Loro hanno tutte delle luci in mano, sventano queste luci, vanno in visibilio. Sul palco canta, balla un personaggio dei cartoni animati, una delle ragazzine dei manga, molto grande, alta quasi 2 metri, perfetta, tridimensionale, creata con un programma che crea ologrammi. In realtà non c'è, non esiste. Dietro il palco c'è una cantante, probabilmente potrebbe avere anche 70 anni e pesare 100 kg. È una ballerina che muove quei passi di danza che la macchina riproduce in un essere tridimensionale che sembra vero, iperreale e reale nella costruzione perché è costruita come un personaggio di cartone animato. E quella folla va invisibile, qualcosa che non esiste, che vede, che ascolta cantare, vede ballare, è un riferimento ai loro personaggi fantastici, ma non esiste sensorialmente se non attraverso la vista, che è poi il più illusorio dei sensi, non ha nessuna realtà, eppure se ne sentono trascinati. Claudio Risé. Riprendiamo rispetto a quello che ha detto l'ascoltatrice sulle rose che non colli più e sui sapori del passato, gli odori del passato, quanto la nostalgia ci fa pensare a cose che in realtà probabilmente nemmeno abbiamo vissuto. Ma io supererei la nostalgia con col desiderio attuale. In realtà possiamo cercarci delle rose che profumano, ci sono ancora, dobbiamo cercare il bravo fiorista che le coltiva, che le produce, ma ci sono ancora le piante che profumano se andiamo in un bosco di conifere, ma anche semplicemente in un giardino di città subito dopo la pioggia, quella terra ha il profumo della terra e delle piante che ci stanno sopra, e soltanto che noi dobbiamo, ecco, coltivare questo gusto, questo piacere, senza lasciarci intorpidire o addirittura chiudere da una nostalgia pessimista, e neppure però chiudere da questa visionarietà allucinata che hai descritto prima di questi simpatici giapponesi, che va benissimo se poi subito dopo o comunque quando possono fanno anche delle esperienze reali che coinvolga la loro sensorialità. Ecco, io vorrei invece qualcosa della tua esperienza reale, nel senso, tu facendo lo psicoterapeuta avrai anche contatti con esseri umani che ti pongono alcuni problemi, come sempre accade, siamo tutti presi dai problemi. Ecco, quanto questo intorpidimento e questa censura sociale rispetto ai sensi è ragione a volte di malessere? È moltissimo, secondo me è appunto l'allontanamento dalla natura in generale, la soppressione della natura, di cui però naturalmente il corpo e i sensi sono una parte fondamentale, è oggi la principale fonte di malessere, di nevrosi dell'essere umano, una cosa che ho descritto via via in tutti i miei libri da 20 anni a questa parte. Cosa volessero dare delle indicazioni? Convinto di questo, perché per esempio se tu non hai più questo gusto come dire preciso, per se non hai più la tua rosa che ti appassiona e che è collegata anche a delle passioni reali, beh, vai in depressione oppure cadi in una posizione di euforia maniacale, come che non sembra molto lontana da questa folla giapponese che si entusiasma per delle cose che non ci sono, e poi la tua vita relazionale diventa molto difficile. Voglio dire, secondo me noi viviamo anche prigionieri a volte di luoghi comuni che ci ammazzano. Allora, la natura non è più quella di una volta, non c'è più la natura, i ragazzi non sentono più l'odore del bosco, la foresta. Allora, per sentire il sapore di un gambo di avena sradicato e assaggiarlo e sentire quel dolcino, basta fare pochi chilometri fuori dalla porta di Roma. Per avere adesso la sensazione del grano che sta maturando, basta andare prima porta, si esce, c'è il grano coltivato, ci vuole 10 minuti, ci vanno gli autobus. Eppure noi ci organizziamo delle feste, delle vacanze, non so, andiamo 3 giorni a Sharm el Sheikh, o andiamo 4 giorni in un luogo esotico, vediamo le palme, i datteri, la sabbia e gli intrattenitori, ma per riottenere e riavere coscienza di queste piccole cose, non è che bisogna fare dei grandi sforzi. Ma sai, bisogna ritrovare un'esperienza corporea che in realtà nessuno ti ha insegnato ad avere, ma non solo, ma ti sono stati forniti fin da piccolo con le fobie dei batteri, dell'igiene, una serie di istruzioni per allontanarti da tutta questa roba. E allora non è così semplice, perché ti hanno detto fin da piccolo, hai capito che Sharm el Sheikh è un posto straordinario, ma perché ci vanno i VIP, stai nel club, eccetera, eccetera, non perché lì senti degli odori speciali o entri o hai delle esperienze sensoriali particolari entrando nel Mar Rosso in inverno, eccetera. Quindi non lo sai che si fa così, fai in un altro modo, nel modo appunto del tiratardi in discoteca, dormire di giorno, non vedi l'alba, e quindi sei privato in realtà del tuo. È una cosa, ripeto, non è una cosa ideologica, è una cosa molto semplice, molto elementare, e che però ti viene, di cui vieni derubato attraverso una serie invece di istruzioni molto precise che ti dicono di non usarli quei sensi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. 800 24 0024, stiamo facendo una rassegna sulla nostra capacità perlomeno di riconoscere il fatto che abbiamo dei sensi articolati, dei sensi che ci danno informazioni del mondo, e il mondo che si esprime attraverso messaggi che i nostri sensi possono cogliere non è poi così lontano, non è impossibile, non è che esista ormai una cappa di piombo che ci ricopre l'umanità, l'universo, e non possiamo come dei ciechi in un deserto sentire più, percepire più il mondo, basta andarlo a cercare e non bisogna nemmeno fare tanta fatica. Manuel, buongiorno. Buongiorno. Io penso che secondo me ultimamente si usa un po' troppo la vista, cioè vogliono imprimerci un po' un modo di vedere le cose. Cioè, io questo lo noto soprattutto nelle pubblicità che fanno ultimamente, tipo dei giochini dei bambini che sono già morbidi, belli così, e poi magari, oppure quando vai al McDonald's vedi il disegno del panino e poi sotto c'è scritto l'immagine potrebbe non assomigliare al vero, cioè o i cocktail nei bar che sono belli colorati, o se no quei meravigliosi piatti di plastica che stanno nei grandi ristoranti o nei medi ristoranti, che uno vede un piatto meraviglioso, un dolce, ma in realtà è fatto di polistirolo. Sì, esatto, cioè non c'è più tanto, c'è una confusione secondo me. No, c'è un'ipersollecitazione, vale come per il gusto, come ci sono gli esaltatori di sapidità e di sapore, ci sono delle colorazioni e delle raffigurazioni fantastiche in cui Photoshop, nel caso dei giornali, dà ai piatti, alle vivande, agli oggetti un colore che poi non c'è mai nella realtà. Sì, esatto, cioè ci si ferma e poi magari si rimane pure delusi e non si ha voglia di scoprire né come mai è così o perché non è come sarebbe veramente un panino, cioè secondo me è un po'... Diciamo che la realtà contraffatta ci dà un'attesa rispetto alle sensazioni che avremmo da un oggetto, da una vivanda, anche da un essere umano, perché una cosa è vedere un divo, una diva al centro dei nostri desideri, delle nostre attenzioni, una cosa è vederlo al naturale, la differenza fra un simulacro e uno zombie esattamente diverso, però quando uno lo vede bello, photoshoppato, fotografato, ben colorato, sembra chissà che quella carne parli da sola, poi quando uno ci sta vicino è normale carne deperibile come la nostra. Alberto. Sì, pronto, buongiorno Nicoletti. Ed io ho sempre fatto il cuoco, di conseguenza diciamo il classico detto, no, si mangia con gli occhi prima che con la bocca e tutto quanto. Riflettevo anche con dei colleghi praticamente quanto questi due sensi sono gli ultimi due, cioè sono i primi due per i clienti, invece per gli addetti ai lavori è l'ultimo passaggio. Cioè per fare il cuoco si lavora di più con il tatto e con l'olfatto e con l'udito, cioè sì, è una testimonianza più che altro quasi per un no, ma è vero, io ho una piccola passione personale che ho scoperto senile per la cucina. Non occorre, quando uno cucina e ha un po' di abitudine, assaggiare quello che fa, è l'ultima delle preoccupazioni. No, effettivamente certo, poi la vista naturalmente ci cerca di preparare, io lavoravo sempre lavorato in posti insomma medio-alti dove dunque si cerca di curare la presentazione del piatto perché chiaramente insomma è importante, mentre per la preparazione vera e propria veramente c'è l'udito, nel senso sentire la padella come frigge o il forno. Però scusi, lei come il maestro di Karate Kid che gli fa fare delle cose assurde per insegnargli poi il senso profondo dell'arte marziale, ci sta dando una grande lezione, che in realtà esiste una corrispondenza, una sinestesia fra tutti i sensi. Noi non lo sappiamo, ma ogni colore corrisponde a un odore, corrisponde a un sapore, corrisponde a una sensazione auditiva. Lei come cuoco scopre che quel sapore corrisponde a qualcosa che lei tocca, che lei sente a naso, a tatto, ma questa corrispondenza fra i sensi esiste chiaramente. Esattamente. Cioè il mondo è tutto collegato, non è che è staccato, che un colore è staccato dal suo odore e dal suo profumo. Persone che hanno il dono della sinestesia, quando vedono un colore ne sentono il rumore, il fragore. E Claudio Risei, puoi aiutarmi un po' su questo settore, che io sto arrampicandomi sugli specchi, ma tu ne sai più di me probabilmente. Questo è assolutamente importante, per esempio i recettori dell'odore hanno a che fare assolutamente con quelli del gusto e sono determinanti poi per il gusto finale di una cosa che metti in bocca. Quindi e il tatto è determinante per tutto, diciamo fino all'epoca della manifattura, dell'industriale, sempre l'artigiano faceva, guardava e toccava, come ci ha detto prima il designer. Il sentire attraverso il tatto mette a posto tutta una serie di immagini visive, eccetera, le conferma e quindi ti dà il via di essere sulla buona strada, quello è un bello oggetto. Quindi è proprio questa esperienza sensoriale complessiva che poi ci dà la sicurezza di noi. Sto facendo una buona cosa, quella cosa è veramente bella, questa cosa veramente mi piace a me, non perché qualcuno mi ha detto che va fatta, va comprata e va consumata. Non a caso quando diceva la scarpa fatta a mano, tu dove immaginavi la mano del ciabattino che mentre cuciva la suola ne saggiava la qualità sia dello spago, sia del cuoio, sia della suola che della tomaia. Raffaello, buongiorno. Buongiorno. Mi sono sentito chiamato in causa con tutti gli elogi che ha fatto a chi ascolta meno. Ah, allora. No, volevo semplicemente dire che rispetto ai sensi, io ho cominciato da 3 anni a coltivare un piccolissimo orto, un piccolo orto che mi aiuta a ritrovare... Che sta a fianco di un'autostrada questo orticello? Come? È a fianco di un'autostrada? No, perché sento un rumore di... No, questa è la macchina che sta viaggiando. Ah, ecco, pensavo coltivasse il suo orto. Non ce l'ho qua al fianco, è l'orticello, no? No, ma lungo un viadotto. Nella casetta in montagna che frequento abbastanza assiduamente, e quindi mi sono creato questo luogo dove cerco di ritrovare il... Beh, l'orto è una grande scuola di riapprendimento dei sensi, perché si saggia il terreno, si saggia la maturazione, si saggia il grado di progressione dell'ortaggio, quindi figuriamoci, chi ha un orto capisce perfettamente ciò che noi diciamo. Bruna. Bruna, sono io, sì. Buongiorno. Ho seguito la vostra trasmissione, volevo dire che io ho un giardino pieno di rose profumatissime e riesco quasi a distinguere da lontano, in camera da letto, l'odore di quale pianta, dalla pianta che proviene. Quindi questo è molto interessante, è un esercizio divertente, analizzare le mappe olfattive che ci circondano, fermarsi un attimo a cercare di cogliere gli odori, e lei lo fa fiore per fiore? Ma fiore per fiore no, però pianta per pianta sì, che ho alcune piante di rose che hanno veramente un profumo intensissimo, oltre che un colore meraviglioso che sembrano di velluto violaceo, quel bordeaux scuro, non so come dir porpora. Quindi anche a toccarle dà delle sensazioni. A toccarle e a profumarle, proprio a immergere il naso nella rosa e a cercare di trattenere quell'odore per ricordarselo dopo. Va bene, Bruna che si tuffa nelle rose mi sembra una delle migliori maniere per concludere solo momentaneamente questa chiacchierata. Ricordo Claudio Risè che ci ha seguito in questa trasmissione, guarda, tocca e vivi, riscoprire i sensi per essere felici. Vedo che qualcuno ancora lo fa e questo mi riempie d'allegrezza. A lunedì. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.